Ok, parte la seconda puntata di Sessioni Notturne e... Sì, no. Sintonizzati, inizia la trasmissione. Mars e Vintro, Radio Wombat in onda per la lezione sulla doppia selezione di tracce bomba da collezione. In missione notturna come un pescatore. Tu cerca altrove se vuoi musica di merda. Se vuoi il contrario, schiaccia play e segui la diretta. Ti culla da stanco e una spinta se vai di fretta. Imposta sessioni notturne sulla giusta frequenza. Vieni Marione, spara più minchia. La giusta. Vai. Ah, no, ho sbagliato. La cazzo di porta? Ah, la porta. È perché volevo fare la doppia sulla culla. Sulla culla e sulla. Ma la culla no. Non è quello. Ok. Okay. Bentornati in questi magici pomeriggi di sessioni notturne. Allora, oggi ci distacchiamo dalla prima puntata in qualche modo, diciamo nello spazio e non nel tempo. Nel senso che parliamo sempre di dischi usciti nel 2018, ma ci spostiamo nel panorama americano, quindi... Abbiamo deciso di selezionare una serie di dischi usciti nel 2018 in America e proporveli in questi magici pomeriggi di sessioni notturne. Ok, allora oggi cominciamo con un disco che è uscito nel gennaio del 2018, un discone per quanto mi riguarda, bellissimo. Uno dei più fichi. parliamo di Whether or Not di Evidence. Evidence, come sapete tutti, cioè sapete tutti che Evidence è uscito da Dilated Peoples con Rakad Iris. Alla fine Science. Non siamo neanche troppo distanti, è un artista italo americano russo, un po' italo russo americano. Signori, è un grande, dal 92 che rappava, dal 92 che sta sui palchi, dal 2000 che lo conosciamo tutti nei nostri stereo, per chi era più grande, chi era più piccolo, non lo so, cioè probabilmente no, però conoscete tutti Dilated Peoples. E parliamo di Peoples Come First. Sì, l'ho detto, ma no, io lascio fare, io con l'inglese, ragazzi, oggi si è proprio capitati male. Sì, oggi è una giornata strana, cioè sì, togliendo sì. Evidence oggi. Io ci provo, però. Siamo tutti stanchi, un po' ieri, non lo so, ok. Allora, dopo vi diamo qualche altra dritta su Evidence, adesso mettiamo Jim Dean, che è il super pezzo dell'estate 2000, 2000 super sempre. Quindi andiamo, e bella là. Yeah. Here to save the day and steal the game. It ain't a crime if you don't get caught. I know names who move in the same. I'm staying out the way, we get away with a lot. My quiet thoughts at night can turn rowdy. Light bulbs and bright ideas can turn cloudy. Big dreams even if they doubt them. I never wasn't sure if I wasn't sure about them. This is not your thing, this is ours. Gangsters got this thing about flowers. Rappers got this thing about power. Bitter and sour. Gossip at the top of every hour. Walking in the rain off the Jim Beam. Dreams broken on the boulevard, Jim Dean. I get a grip for bars like a Jim Beam. Eyes redder than the rosters on the swim team. We stay within, not the way we get away with a lot. About BET, I'm talking about death, D to add the EBT, 91 dub C, don't work, you don't eat, cross streets where reality and hard times meet, back in my youth I was a wildcat, put my ties in reverse and get some miles back, it's been a minute since a while back, round of applause, blow the horns like miles back, it's God's work that is not in my hands, but I'm holding on tight for a few of my fans, for you. Dedicated if the line is short. And if the line goes long, that was your support. There was a few times I wanted your respect. But you tried to play me like some kind of a threat. The times I've been elusive ain't a lack of love. Just an alley cat, got a lack of trust. I went from slow flow to never the same flow. Cause doing part two's not the reason I came for. Until then, I had the end of the rainbow. Still the pot of gold about as real as a game show. Here to save the day and steal the game. It ain't a crime if you don't get caught. I know names are moving the same. We're staying out the way, we get away with a lot. Just below 40 with the wind chill. All my shorties getting spin like the windmills. Weatherman, I've been ill, the sky curse. Fire verses, I write for what the prize worth. Potluck, one then I got stuck. Fell then I got up. Never went back down, never played the background. Anxious more than patient, I attack now. Don't get my way is when I act out. Never waiting on the industry, waiting on the tables till the tables turning into me. Go back, hands on the clock, they call it throwback. But only no dope and judge not if I know that. Need is need, that ain't weak shit. But greed is greed, that's some weak shit. I make a promise, I'ma keep it. Never take my kindness for a weakness. Non avete goduto anche voi per il beat di Nozz? Ditemi di sì, vi prego, altrimenti mi sento da solo. Allora, Evidence, cosa dire di più su Evidence? Finiamo un discorsetto di prima. Evidence sicuramente sì, sarà ricordato per i Dilated Peoples, con la quale ha fatto Live on Stage, il famosissimo Worst Come to Worst, Walk This Way, Walk This Way, sì... This Way e basta, non mi ricordavo. Che è un pezzo dedicato anche con una collaborazione di Kanye West e Guru nel video, Alchemist. Pezzo dedicato a Run DMC, John Master J, non mi veniva il nome, scusatevi. Evidence, che ci scalda il freddo gennaio 2018. Ci scalda il gennaio 2018. E noi, siccome a noi il freddo non ci piace, saltiamo direttamente a giugno, perché il freddo, primavera, comunque è ancora incerta. Vabbè, ma adesso in diretta Brothers di Evidence. Adesso tocca a giugno. Tocca a giugno, dove ci sorprende di nuovo Eric Stephens, che conosciamo meglio dal 96, non dal 96 sotto il nome di Apollo Brown, perché ha cambiato diversi nomi prima di chiamarsi Apollo Brown effettivamente. E tra l'altro abbiamo scoperto che il nome in realtà ha una storia, perché lui si chiama Apollo, il nome del dio greco che tutti conosciamo molto bene di persona, e Brown perché comunque per la difficile condizione, diciamo, che c'era del razzismo che vivevano le persone di colore, esatto. Allora, il nostro Apollo Brown inizia appunto nel 96 a fare varie sperimentazioni e soltanto nel 2007, quindi 11 anni dopo, pubblica una prima raccolta che si chiama Skilled Trade. Stavolta la italianizzo, la pronuncio in modo tale che almeno è chiara. E poi appunto esce di nuovo nel 2009 e con una raccolta di 37 beats. E nel 2010 forma i The Left con Journalist 113 e DJ Soko. E lo troviamo poi appunto in questo 2018, in cui lui pubblica tre dischi diversi, cioè due EP e un album. E noi abbiamo scelto quello con Locksmith abbiamo scelto No Question da farvi sentire. E di questo la traccia Advice You, my... scritto male, scritto Advice to my younger self. Mi sembrava stra. Sì, ho scritto male. Io, tu, in realtà mi è sfuggita una Y. Yeah. Che comunque. Vabbè, ci sta. Sì, sì, no, infatti. Non... Adesso, dopo questa eloquente spiegazione, vi lasciamo ai bitoni dello zio Apollo. Vi lasciamo a tutta la bella musica, che, a tutti i bei sample che lui spesso, sempre, quasi sempre riesce a tagliare. Sì, questo particolarmente, devo dire, qui questo è, bravo, questo è particolarmente bello. Questo bravo Locksmith che mi piacerà, mi è piaciuto, abbiamo scelto il penultimo disco apposta, che è fico, quindi che bel sample, bella. Yo, hey yo, little man. Yeah, you, man, I'm talking to you. Come over here, man, let me holler at you for a second. Yo, put the ball down, man. Some real shit. Listen. What's up, little fella? I know you're happy and feeling hopeful. I know you play with a sense of love and your heart is noble. I know you vocally haven't learned to express whatever repressed trauma. You're still young, you feel it less. And unless you talk about it, it follows you like a cloud. Or some heavy baggage you had to drag through a crowd. But for now, it's just a drop in the well. You shake it off, never speak it again till your career's taken off. But we often overlook what we look upon in the rear view. You never touch a drug cause your parents won't let it near you. You dabble with addiction to money, women, and stardom. But the camera lens can be a narcotic, don't try to bargain. If you barter with a sense of morality, more tragedy befalls the foundation. I hope you found you some patience. I hope you don't put your faith in man. It never helps. Even trust could be a vice. Some advice to my younger self. Some advice to my younger self. Just advice to my younger self. Some advice to my younger self. Even trust could be advice, some advice. And I tell you, never play it safe and never settle for second. Never hesitate, not even just for a second. Never second guess if you say it, then manifest it. But be careful who you say it to, so people are trying to test it. If you think, use reflection. Have sex, then use protection. If you meet a girl and don't, then make sure you have a connection. If she keeps it, then you stuck with that woman, don't want to hear it. If she doesn't, then the guilt you feel later will kill your spirit. Make sure you earn some money, but money is not your God. Just a means to purchase things. Put family before your job. Put God before your family and love before your lust. Protect yourself at all times. Put truth before trust. Never fuss with ignorant folks. Actions are much louder. You retreat to keep the peace. That does not make you a coward. If you focus on you, you can never go unfelt. Not a lecture, just a lesson I give to my younger self. Some advice to my younger self. Just advice to my younger self. Some advice to my younger self. Even trust could be advice, some advice, advice. Apollo Brown. Io tutte le volte che sento questo pezzo mi partono i brividi all'inizio, proprio appena sento partire sotto sto piano. Non lo so, comunque Locksmith, dicevamo, rapper californiano attivo dagli anni 2000, cioè dal 2000. Quindi non tocca il secolo scorso. E, diciamo, si fa conoscere col gruppo Frontline. E, quattro dischi? Sì, quattro dischi e cinque mixtape. Passiamo adesso a... Rimaniamo in realtà nello stesso mese. Rimaniamo a... Dopo aver fatto grandi salti. Siamo a giugno, vero? Sì, sì. Il 2018 americano è stato molto diverso da quello italiano. Gli avevamo un pezzo per mese praticamente. Sì. Quindi siamo rimasti male, però i nostri gusti saltavano un po' così. Avremmo potuto prendere un disco per mese, però abbiamo detto no. detto no perché abbiamo perché scelto. Il gusto è superiore, esatto. al tempo. Ci siamo ammazzati giorni per scegliere la scaletta di pezzi da proporvi oggi. In realtà è stata abbastanza spontanea. Era già pronta settimana scorsa, credo. Abbiamo preso 35 dischi e abbiamo detto no, sono troppi. Okay, ce sono ne troppi. O facciamo 6 puntate solo sui dischi 2018 e poi abbiamo deciso che forse ne faremo solo un'altra. Esatto. Quindi adesso partiamo con un grande ritorno nel 2018, uno dei più attesi del 2018, almeno per quanto mi riguarda. Sconvolgenti. E parliamo dei Jedi Mind Tricks, parliamo di The Bridge and the Abyss. Disco che fra l'altro ha una copertina bellissima. Copertina bomba, bellissima. Andatevelo, sì, a vedere. Insieme al penultimo disco hanno dei disegni veramente... The Thief and the Fallen, era il 2015. Ora, i Jedi Mind, conosciuti da tutti, formati da Vinny Paz, che si chiama Vincenzo Luvineri, quindi origini italiane anche per lui, dal Vinny Pazienza, dal produttore Stoop, che si chiama Kevin Baldwin, e da Jas Allah, che si è unito dopo ai Jedi Mind, rapper di New Jersey, che si chiama James Bostick. Ora un attimo che Marta mi ha promesso un applauso, tolgo il beat. Sì, assolutamente. Il primo, sì, disco del 97 si chiama The Psychosocial, Chemical, Biological and Electromagnetic Manipulation of Human Consciousness. Probabilmente l'ho pronunciato malissimo, però... Io non ci sarei riuscita, primo discone del 97, tutto crudo, scuro, più o meno così. Ricordiamo Violent by Design del 2000, che è un disco che mi ha cresciuto in tutti i sensi, mi ha veramente cresciuto. Cosa dire su Jedi Mind? Sono conosciutissimi ovunque, dappertutto, in ogni scena, in ogni... stato, sono conosciuti. Vinny Paz è un pazzo, è completamente pazzo, secondo me. Se avete mai tradotto i suoi testi o comunque letti, cioè, vi siete fatti un'idea di che tipo sia. I beat di Stoop sono la cosa più monumentale del pianeta, perché mi hanno cresciuto anche loro. Ho iniziato a campionare musica classica per colpa sua. Beh, non scegliamo musica brutta da farvi sentire. Esatto. Ricordiamo le collaborazioni con Kool G Rap, con Black Togi, Dilated, Sean Price, Cannibus, Kool G Rap, che abbiamo dovuto togliere dalla lista. Davvero. Non perché c'era roba più importante, perché non ci bastava il tempo. Perché Kool G Rap lo conoscete perché tutti. Perché sì, perché ve lo sentite, se no dai. Scegli scopo. Se no vi dobbiamo dire tutto noi. Invece dite a tutti quanti: è uscito il disco nuovo degli Arts of the Toad, e chi sono? Ve lo diremo la prossima puntata, che è uscito quest'anno. Quindi, tralasciando tutto ciò, ora vi facciamo sentire Death Toll. Ce l'hai fatta prima, vuoi farcela ancora? Death Toll. Senti, non mi ricordo mai così legge morte in inglese. Death. Quindi è Death Toll Rising. Vabbè, senti, avete capito, no? mi sa che era la numero 8 del disco, non ricordo, vabbè. Bella, bella. Me ascolto. Un po' di cattiveria gratuita. Ciao. Yeah. Jedi Mind. Crack Pistol Passion. No Stoke. Hermano. Yeah. You talking gunplay? Well, let's play with them guns. See, a lot on night ugly and you stay in the slums. Pass the ends and take flights while you begging with bums. The coat of the black virgin isn't safe in the sun. Heckler and Kodge, black ski mask and an onion. This motherfucker crack a smile like he laughing at something. I take his bounty mind hard like I'm snatching it from him. He ain't smart enough to understand assassins is coming. I'm blasting his son. That something puts you in a tomb. And that whop of gold can shoot through the room. My dude, I'm a goon. Strap with two twos in the womb. See, and Pazzi spells something and it's usually doomed. See, it's gonna get ugly if you violate my space. The six-pack click-clack barrel in his face. Them chump foul boys will hit you without warning. Bring pies to your crib like this was a house warning. Yeah. Pack Pistol Pazzi. Jedi Mind. Doggy, that's a type of weapon you with. That's the type of bullshit you should have left in the whip. You ain't worthy of the bullets I got left in the clip. Soon as shit start popping, I go right for the grip. I'm liable to flip. Serial killer and his copycat. The Marsburg lean is 7% body fat. You the main producer of predictable punani rap. Chamber pressure pushes the bullet and pushes body back. You're cooking in the kitchen but avoiding the chef. I'm like Heisenberg, mastermind, boiling meth. Homie have to take a Ellis, unavoidable death. They say the planet grows dirty that the soil is wet. Or some grease ball shit, overflowing with gravy. Don't tell me about the pain, just show me the baby. Or some daylight shit, Paul, I am who I be. The executioner is coming and it's probably me. Where's it? Perché voi non lo sapete, ma noi siamo qua a canticchiarcele tutte mentre, mentre non ci potete sentire. Magari la prossima volta facciamo uno scherzetto e ve ne cantiamo una noi. Allora, andiamo avanti. Andiamo un po' tristemente avanti. Entriamo in luglio. In luglio, quando fa caldo. Quando fa quel caldo che suda, stiamo aspettando. Che esci di casa, stiamo sudi, aspettando alla grande. Sei già sudato. E troviamo il primo disco postumo. No. Cioè, prima, va bene, prima c'era il mixtape, va bene. Intanto introduciamo l'artista. Ecco. Allora abbiamo Sean P, maestro newyorkese. Esatto. Maestrissimo newyorkese del 72 che ci lascia, però troppo presto, ci lascia nel 2015, nell'agosto del 2015, e viene trovato morto per cause sconosciute nel suo appartamento l'8 agosto. Sì. E quindi poco dopo, il 21 agosto, viene fatto uscire il mixtape dal titolo Songs in the Key of Price, che si rifà al famoso album, quello di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Yeah. E poi appunto nel 2018... Metal Detectors, Sean P, parliamo un po' di Sean P. Inizia con gli Alta Skelta, con Rock, la Bootcamp Click, chi dimentica il collettivo Bootcamp Click. E dopo gli album con gli Alta Skelta, appunto Nocturnal del 96 e Magnum Force, inizia a lavorare da solista e esce la prima volta da solista nel 2005 con Monkey Bars. Che discone. E nel 2007 con Jesus Price Superstar. Genio, che comunque, cioè, il senso dell'umorismo non gli è mai mancato. Questo, questo non gliel'aveva nessuno. E, non lo so, vuoi dire due parole anche te su Sean P, già sì, che prima so che ci sei molto affezionato. Ma poi vi faremo una puntata dedicata a Sean P, perché voglio sentire Onion Head pompata in radio, perché è il mio pezzo preferito. Ragazzi, io l'ho visto live, ogni volta che ci penso mi vengono i brividi. Che bello che era Sean P. Cioè, non bello, nel senso, era proprio bello, sì, capito? Era ribadisci armario. Di essere anziano. Però era fortissimo. Sì, anziano a chi? Vabbè, ragazzi, dopo queste piccole perle, vi facciamo sentire The Brian Song con Rim Davilian, Sean Price e Hilagi, non so come si legge questo. Un padre, però. Color of your skin doesn't matter when you got it in your hand. Clap the young black Bob Dylan the rap. You can feel it. in the gap, sacrilegious, digging the mouth of bad bitches. It's cool when this G-Rap world rules the bitches on fleek. When I took my own beep, beep, I'm vicious. Deep with the bullets I speak, sleeps your mistress. No assistance, ghetto ISIS on the sentence. I'm different, pissing on the world from the metal detected, tech metal level, you said benevolent. Energy of the exceptional vet. Defense in death threat, direct express. One way to get to hell jail, fuck with the best. P. Boss with the vibe of the past. Breaking off, get lost like the tribe of Shabazz. Why, my brother? Knowledge 120, break your compound down. The brother gun dummy, pick. The Viking, the brother Mozone. Get your thoughts thrown from verbal and hand chrome. Rap predators, don't get caught in the feeding. This is Mike Tyson writing social graffiti. The Viking, the brother Mozone. Get your thoughts thrown from verbal and hand chrome. Rap predators, don't get caught in the feeding. This is Mike Tyson writing social graffiti. Ravaging the booth, rapping shit. Savage in pursuit of happiness. I don't co-sign or support thoughts of bitch niggas eating collard greens with salt pork. This is the onslaught. The fifth happy rocking on the shit that the sun brought. Glad to meet ya. Push your wig back. You got alopecia, pig. That's the Ella massacre. Move in any matter. It don't matter. Ella was better than y'all. That chatterbox get boxed in the brain splatter. Brain rapture. Pain captured in my veins. Cocaine like. Metaphors aim high in plain sight. Poking on the plane pipe, putting your dame. Got a 4-4, focus on your fame. Slaying the predator. Legendary, I'm every murderer inside of America. The Viking, the brother Mozone. Get your thoughts thrown from verbal and hand chrome. Rap predators, don't get caught in the feeding. This is Mike Tyson, writing social graffiti. The Viking, the brother Mozone. Get your thoughts thrown from verbal and hand chrome. Rap predators, don't get caught in the feeding. This is Mike Tyson, writing social graffiti. Because I'm so cool, cool, cool. Bello ragazzi, bello, bello. Sean Price si fa sempre riconoscere per il suo timbro vocale, per il suo parlare di se stesso. E per il suo far parlare di se stesso. Sean P is the best rapper. Sei uguale. Potresti mettere su una cover band. Sean P, you don't fuck with the band. Ok. Allora, adesso andiamo avanti ed entriamo nel caldo mese di agosto. Chi è che fa uscire un disco ad agosto? Mi sì, infatti, io. Effettivamente anch'io quando ho letto la data d'uscita ho detto mi sembra fosse il 24 sì, agosto. Proprio. Sì, io vedo pazzia pura. Ci pensa quel pazzerello di Fliptrix. Effettivamente. Direttamente dai Four Rolls. Solo da lui potevamo aspettarcelo. Direttamente dai Four Rolls in Inghilterra, Fliptrix, non lo conoscerete tutti. Però probabilmente conoscerete più Four Rolls. Vi dico la verità, io su Fliptrix non c'ho molto da dire. Anche perché ci ho provato a cercare, ma veramente però volevo farvelo sentire, quindi non è che mi ammazzo più di tanto. Alla fine la musica va ascoltata. Esatto, cioè Fliptrix inglese. Non ci piacciono gli intellettuali, esatto. Che si chiama Alexander Whitehead. Nato nel nei Four Rolls insieme a Verb T, BVA e Leaf Dog. Sicuramente avete sentito. Hanno collaborato con, anche con DJ Premier. Hanno fatto uscire quel pezzone con Premier. I Four Rolls, che era una cosa assurda. Sono venuti in Italia e probabilmente ce li siamo persi tutti, anche voi che state ascoltando, spero, perché io me li sono persi e mi rode un po'. Quindi adesso vi faccio sentire Fliptrix con una serie proprio che facciamo sparire le vibre positive, perché questo pezzo sì, tutto è tranne, ma tutto il disco positive. In realtà è un sì, po', in realtà, un po' sì. Macabro, esatto. Come se... Quindi ora vi lasciamo a Fliptrix, No Time to Rewind di In Exile. Listen, inhale, exhale, listen, listen, yeah, you better know my name, the of swag, grab a pen that's stain and write it on the train. Smoking like an old school chimney in the brain. When I'm breathing in, all I really feel is pain. Still I be a author with the aura, that's insane. Rip apart the formula, I leave them all deranged. Blow their fucking brain like Cobain's upon a cane. Calling up the dealer, put the sniper to their brain. Never play no games, they get impaled by the day. It's all the bloody same, every Friday anyway. Everybody's off their face on ye, on ye, on ye, on ye, on ye. I don't even touch ye anyway, no thank you mate. I'd rather sit and resonate with a couple flowers, couple crop circles round us, harvest smelling like a baker's counter. Watch them weighing out those ounces, about as safe as houses. I kick the door off those mountains. Now I'm standing at the top, hallucinating, shouting. How am I allowed in? Oh wait, I'm not, I broke the lock, that's why my fate's resounding. Had to take it to the top like floating corpses after drowning, I'm astounding. You getting deep in them swamplands now, sonny. There's no people round here, there's no help for you. How you think you get away with this? You've gone too far this time, so now there's no time to be whined. You getting deep in them swamplands now, sonny. There's no people round here, there's no help for you. How you think you get away with this? You've gone too far this time, so now there's no time to be whined. Or on the ways to conquer phases, fuck basics, live your life like a king. That's the main thing, it's from within. How you make your future bliss? Drift through the music strips, seducing trips, cruising swift through blood drenched mutiny. Ever so soothingly, I'll move you like a eulogy. Soon to supersede the scene with my new releases. The future's feeling seasick, everybody super wavy. The rainforest getting massacred, we need to save it. It's like our planet's in the passenger seat of a suicidal driver's car, going fucking fast with no license. Drunk and high off drugs, popping like a fire hydrant. Busting stunts amongst the punters while I watch them riot. I'm storing info in my melon for the write-up. Forever setting devils like my lemon when I light up. Immeasurable for life, cause I'll be everywhere in sight, bruv. You can find me in your mind when I'll be demonstrating rhyming. Getting deep in them swamplands now, sonny. There's no people round here, there's no help for you. How you think you get away with this? You've gone too far this time, so now there's no time to be whined. You getting deep in them swamplands now, sonny. There's no people round here, there's no help for you. How you think you get away with this? You've gone too far this time, so now there's no time to be whined. No time to be whined. Yeah, there's no time to rewind. Time don't stop for no man. Listen. Time don't stop for no man. Listen. Time don't stop for no man. Listen. Avete sentito questo beat lento, calmo, tranquillo? Sembra quasi che non sia direi senza pare, perché non è così, però tutto così carino. Allora, andiamo avanti. Adesso abbiamo una sorpresa che è stata molto sorpresa del 2018. Adesso è dura, ragazzi. Adesso c'è qualcosa che non va. Un momentino, problemi tecnici. Ok, non c'era i bitti sottofondo. Ecco cosa c'era che non andava. Allora, entriamo nel freddo mese di settembre. Cioè, freddo dipende da dove abitate. Se state qui con noi a Los Angeles, in realtà non è tanto freddo. Allora, partiamo con Elephants on Acid, che è il titolo bellissimo del disco strano dei Cypress Hill. Sì, strano. Definiamolo strano, almeno rispetto al resto che avevano... Esatto. Che avevano prodotto. Allora, parliamo dei Cypress Hill. Gruppo americano considerato tra i più grandi in realtà del rap latino. Vabbè, li avete sentiti per forza anche soltanto a giro per la strada, in qualche modo vi sarà capitato che... Esatto, magari anche giocando a GTA avete sentito i Cypress Hill, perché in San Andreas ci stava un pezzo di Cypress Hill, c'era How You Could Just Kill a Man, singolo del loro primo disco, e li conoscete tutti i Cypress Hill, conoscete Sandog, conoscete DJ Max e soprattutto conoscete la voce nasale di B-Real, quello che rappa un po' così in mezzo spagnolo e mezzo americano. Quindi li conoscete, i Cypress Hill, che hanno cominciato nel 92 con il loro primo disco che si intitolava Cypress Hill, appunto, e nel 93 è uscito uno dei loro più grandi successi, e parliamo di Black Sunday, che conteneva il singolo per eccellenza della storia dell'hip hop, che è Insane in the Brain, e lo conoscete tutti perché addirittura anche i Simpson non l'hanno fatto sentire quel pezzo. Lo conoscete tutti. Questo disco nuovo, The Cypress Hill, è diverso. Si distacca dagli altri perché DJ Mugz ha preso una via un po' più tetra, sia del campionamento che della produzione, molto più scuro, più tetro, e magari si rifà anche a questo il titolo del disco, Un elefante sotto acido. Ve ne accorgerete ora che vi faremo sentire il pezzo. Perché pesta duro come un elefante, ma è anche sotto acido. Quindi vola più che pestare. Ora vi facciamo sentire Falling Down dal nono disco dei Cypress Hill, uscito nel 2018. Abbassate il volume, mettetevi le cuffie, chiudete gli occhi, spegnete le luci, cioè, vivetevela a modo vostro. Fatevela prendere male, vi giuro, che vuol dire? No, vabbè, no, credo, cioè, anche che ne so, Fattanza Blu dei Sangue Misto, te la senti a occhi chiusi, anche Presa Male dei Sangue Misto. Vabbè, bella, a voi. Pompatevi il suono super strano. Manifesto di tutto il resto del disco, che suona tutto più o meno così. Cioè, messo a confronto con i pezzi che tutti conoscete, vi sarete resi conto del cambiamento, no? Cioè, ce ne siamo resi conto un po' tutti. Ora, prima di continuare, piccoli messaggi pubblicitari. Ah, eccoci, sì, giusto. Allora, vi ricordo di seguirci su www.wombat.noblogs.org. Quindi se ci state sentendo dal computer sapete già il sito, se non ci state sentendo dal computer adesso sapete il sito. Potete contattarci a postawombat@insiberia.net per quello che volete, anche se volete chiederci ma com'è andata la giornata, tutto a posto, rispondiamo da lì per mail. La frequenza AM, la 1359, per sentirci fino a dove piglia. E basta, questo era il piccolo intermezzo pubblicitario prima di lasciarvi la nostra pagina Facebook anche. Ah, ce l'hai, è vero. Mi piacciate, ci seguite, abbiamo fatto mi piacciate. Abbiamo fatto la pagina Facebook di Sessioni Notturne, lì potete trovare nulla, vi postiamo nulla, la non ci trovate niente, però c'è la grafica, ci stanno gli amministratori della pagina e ci stanno i post dove vi diciamo ascoltate la puntata che è andata in diretta e vi rispondiamo anche più velocemente. Sì, infatti, tutto quello che volete chiederci anche lì, se volete chiedere dei pezzi, notizie, dei cose, temi siamo per molto le puntate, che pronti a tutti, ci date un favore, che io già non so la prossima puntata che dobbiamo fare, improvviseremo qualcosa, quindi se ci date un'idea ben venga. E adesso andiamo avanti rimanendo sempre nello stesso mese, sempre a settembre, andiamo avanti con un duo misterioso, perché vi dirò, nonostante le dure ricerche, è faticosissimo trovare notizie soddisfacenti e esaustive su questo duo californiano. Stiamo parlando dei Last Jets Club, che è un nome, una garanzia, che ci piacciono un sacco e abbiamo scelto di metterli proprio perché hanno questo suono che è proprio Last Jets Club, proprio suona molto Jets Club anni 90, molto, molto analogico, anche se è quasi una bestemmia dirlo. No, suonano da Dio. Abbiamo detto, mettiamo un gruppo che probabilmente non conosce nessuno, magari ci credono più esperti della scena. Quindi abbiamo il, come si dice, rapper di San Diego, Vex. E invece il danese Mike B, DJ, beatmaker del gruppo, e molto poco più, il disco si chiama Jetsies puntini puntini e abbiamo scelto di farvi sentire appunto Grab the Mic, che è un pezzo che suona un sacco anni 90, io ragazzi ve l'ho detto, dovete segnarvi proprio le parole, che le lettere che dico per capire che cosa sto dicendo, non fidatevi della mia pronuncia. Quindi Grab the Mic del Last Jets Club, tutta vostra. Buon ascolto. Grab the mic. The mic and express. Rest. Thoughts that deep. The mic. I grab the mic. The mic. I grab the mic and express. Breath. Thoughts this deep. I grab the mic and just start to spit it. So many thoughts per minute, others say, oh, forget it. You lost, admit it. Man, you can't stop the physics. Might have cost some fame, but how much did it cost to get it? I spit that real ill shit the kids are not forgetting. They nod their head in, knowing hip hop's not forbidden. I'm putting posters up like soccer moms lost a kitten. Big titty women saying, oh, nah, you didn't. They on the ditty, put the condoms on, it fitting. And I ain't Christ, but what I do, the stars are mimic. As far as the limit, it's okay if your car's a Civic. As long as it's got an engine, I'ma spark the minute we hop up in it. I'm putting out nothing less, I got percentage. Peep how I spit this shit, start to finish. You're all diminished. The fuck you think you in an argument with the God's infinity? Motherfuckers. I grab the mic, the mic and express. The mic. I grab the mic. The mic. Questo pezzo sembra uscito dalla Golden Age degli anni 90. È una cosa incredibile. Invece il disco è uscito l'anno scorso, ragazzi. Non sai quanto sono. Avreste mai detto che nel 2018 usciva una cosa così nostalgica? C'è ancora che fa roba come si faceva una volta. Praticamente non c'è nulla. C'è un basso, dello scratch, un rap, un pianoforte. Allora, semplice, puro e pulito. Prima di continuare, vi diamo una piccola informazione. Cioè piccola, oddio, è una bella informazione. Una bella informazione. Giusto per farvi sentite i beat che sono sotto mentre parliamo. Questa volta abbiamo deciso di mettere un beat tape di Exile, che sicuramente conoscete, che ha prodotto un sacco d'artisti. Questo è Baker's Dozen, uscito nel 2018, che curiosamente ha lo stesso titolo del beat tape che abbiamo usato l'altra volta di Eloquent. Si chiama Baker's Dozen, anche quello. Sarà perché sono sotto la stessa casa. Sarà che siamo molto coerenti. Bene, allora, facciamo un progetto che ha lo stesso titolo, bella là. E quindi nulla, adesso andiamo avanti. Adesso parliamo di Atmosphere, che sono un duo hip hop americano formato da Slug e da Ant. Slug è il rapper che nel vecchio collettivo The Rhymesayers Collective faceva il DJ, quindi qua invece ha cominciato soltanto a rappare. E Ant, che è il produttore, il beatmaker. Cosa dire sugli Atmosphere? Fanno un hip hop molto conscious, molto lento, molto dolce. Una sorta di emo rap, come si sono considerati loro stessi, dei portatori degli esempi di conscious rap ed emo rap, che è un termine che in realtà ho sentito solamente quando loro hanno detto, cioè, non sapevo neanche esistesse l'emo rap. Però adesso capisco il perché, cioè, i dischi sono tutti molto, hanno tutti delle atmosfere molto particolari. Vi consiglio l'ascolto di tutti i loro dischi, soprattutto dell'ultimo, perché si mantiene coerente con quello che hanno fatto, con quello che hanno fatto negli anni, cioè meno pianoforte del solito in realtà, però si mantengono molto coerenti. Ve lo consiglio. Contrariamente ai Sopra e Still, che... che sono caduti in un trip fatto di acidi. Vi consiglio i 9 dischi e i 10 EP degli Atmosphere. Poca roba da ascoltare, insomma, tanto. Sapete cosa fare questa settimana? Sono due pezzi, questo mese. Usciti due giorni fa, due pezzi. Beh, niente, dai, niente più. Vi facciamo sentire Graffiti degli Atmosphere, preso dal loro ultimo lavoro, che è Mi Vida Local. Niente, godetevi quest'altro bel viaggetto nell'emo rap, come lo definiscono loro. I wrote this one when I was still alive. Hey you, yeah you, listen. And if I had a horse, climb up and ride off into the warmth, I'd never turn around, I'd just kick up this dust till I find where I'm found. And if I qualified as a genius, maybe I'd live out my dreams and die dreamless. These voices in my life are all make-believe, trying to find a way to exploit my choice of pain relief. It doesn't really go very high if it was born to fly. When they come to divide, we've gotta multiply. You make me wanna understand your graffiti. You're trying to make me feel like somebody needs me. I'm examining the clouds like I'm looking for a sign. I hope you're having a good time. If you wasn't afraid, would you lie so much? You got your tail between your legs, chasing fire trucks. You can tell I'm not the best at expressing how I felt. That's why I hide it inside of the words I spell. I mix the medication that fixes whatever ails them. And now she treat me like a snake oil salesman. Huh. Well, thank you for your vote of confidence. I don't give a shit about how it figures into all your politics. Still believe you gotta make your art, play your part. The world waits for you to break my patient heart. Now let me find a road by the airport to park and watch the planes arrive and think of what I'm here for. And I ain't trying to kill the vibe, but I'm grateful that you're still alive. Now give me a high five. It doesn't really go very high if it was born to fly. And when they come to divide, we've gotta multiply. Make me wanna understand your graffiti. You trying to make me feel like somebody needs me. And that's what we supposed to do, I guess. Spread love till you've used your last breath. No matter what the challenges hold, I was bold because I knew that we could handle the cold. And just in case I don't say this enough, thanks for the love, I love the way that you love. And I ain't making this up, you put some change in my cup. And then you gave me a hug, it's like you came from above. It doesn't really go very high if it was born to fly. And when they come to divide, we've gotta multiply. You make me wanna understand your graffiti. Trying to make me feel like somebody needs me. pensavate fosse partito un altro pezzo, eh? E invece non ci facciamo scappare un finale del genere, una coda. Non volevamo tagliare il pezzo, dai, era un bel outro del pezzo, dai. Sì. Andiamo avanti e arriviamo a... Vi presento un artista, si chiama Termanology. E nasce nell'82, ha origini portoricane, ma comunque statunitense. Allora, il suo primo album è del 2005, Out the Gate, che è prodotto da DC The Media Alien, dove è contenuto il singolo This Is Hip Hop, con cui Termanology riscuota la sua prima grande e alta popolarità. Sentitevelo. non ve lo faremo sentire qua oggi. Esatto, perché non è del 2018. Esatto. Cosa succede poi a Termanology? Fa amicizia con uno dei membri della Gangstar Foundation, Cram Snatcher. Che è difficilissimo da pronunciare per me. Che lo porterà a conoscere e collaborare con il grandissimo DJ Premier. Chi non lo conosce lo conosca, perché ragazzi, DJ Premier vale la pena più quanto tutto quello che vi abbiamo fatto sentire finora. E prima o poi faremo una puntata anche su di lui. Solo su di lui, tanto esatto. Tanti di quei dischi alle spalle. Esatto, e con DJ Premier nel 2006 fa uscire il singolo Watch Out, ora lo dico, Watch Out, Go Down. Difficilissimo. E anche con questo diciamo che continua sulla strada della fama e della popolarità, perché comunque appunto riesce sempre a produrre prodotti di una certa qualità. Ecco che incontra il secondo artista di cui vi parleremo in questo pezzo di puntata. Parliamo di Static Selecta, Static Selecta anche lo conoscete, spero. Static Selecta, classe 82 anche lui, produttore discografico, radiofonico, beatmaker, DJ, hosted, ha fatto qualsiasi cosa. Static Selecta, gli manca soltanto il rap probabilmente. Direttamente da New York, ha prodotto pezzi a Nas, a Royce da 5'9, alla G-Unit, allo stesso Termanology, un numero così alto di artisti che mi perdo anche a elencarveli, sinceramente, non ve li elenco tutti. Conosciuto Termanology, hanno fondato insieme un gruppo che si chiama 1982, che cioè un gruppo, semplicemente un titolo con la quale fanno uscire i loro dischi in combo, diciamo. E l'ultimo, uscito nel 2018, è proprio Still 1982, detto in inglese. Che in questo novembre momento... 2018. In questo momento... 1982? Tipo... No, 1982. Sì, è vero, sì, 1982, hai ragione. 1982, insomma, Madonna, se ve lo cercate. Raga, non ho fatto inglese a scuola, mi dispiace. quindi adesso vi presentiamo un pezzo che si chiama Still, cioè fantasia nei nomi oggi. Si chiama Still questo pezzo, l'abbiamo scelto uno perché è figo, suona bene, la produzione è abbastanza fresh, c'è Kendra perché Foster fa piacere nel ritornello, c'è Termanology che si diletta con le liriche. C'è anche una dedica a rapper scomparsi negli ultimi anni, fra cui il nostro grandissimo e inimitabile Sean P. Quindi vi facciamo sentire questo pezzo, pompatelo ovunque. anche perché, cioè, prima o poi vi facciamo sentire anche gli altri di Termanology, che sono ma anche fichi. Gli altri di Selecta, direi. Esatto, pure Static Selecta ha così tanti dischi all'attivo. Tutto vostro. Bello ascolto. One time for Mac Miller. Still on top. Two times for Prodigy. Still on top. Three times for Sean B. Still on top. Sound like money, baby. Still on top. Your boy slick like an alligator, cocaine marinator, throw flames at a hater. Shit, I've been fly since I had a Sega. You shorty lost, man, I had to save her. Grew up poor, the shit scarred us. Now it's iced out diamonds for the tallest. And I'm getting money regardless. Give a fuck if you starving, bitch, I'm James Harden. Motherfucker, that mean ballin'. Mardi Gras down in New Orleans. And from Taiwan to Thailand, I done been everywhere, I can't lie, man. Globe traveling, cold scavenger. Flow savage, I'm still smacking these whole rappers up. Put a garage in my tomb. I'm fucking high. Like a Minaj on the moon. Let's go. Still on top. You can hate me if you at high noon. Six bras in my room and none of them shot too. You know, all my stars aligned too. Money coming in so fast, I had to move. My girl a diamond, she dumb thick, dress fly, and she get tipsy off of one sip. Stumbled in, wavy again, gave it a drunk dick. Hit it doggy style, had a reminder who runs shit. Run shit. All that bummy shit is behind me. Now we getting the shine the way they did in the 90s. It's 82, don't act brand new. Hit the stoop, heat the glass, played up on the man too. And you can see me when you see me. Not sure if you heard the commercials on TV. Rest in peace to Sean P. Money falling out the sky. Let's thank the Most High. Let's go. Still on top. You can hate me if you want. I'm still on top. Still on top. Cause I got this thing on lock. I'm still on sitting top. Over there. I see you catching my baby. See me smoking on the best instead of stacking my paper. Better go and get your own. You see, I put in my labor and I work on it all day long. You always see me grinding, I earn it all. And I need a break, I deserve to ball. Still on top. Still on top. Still on top. Still on top. Intervento. Sì, è bello chiudere i pezzi come se stessimo rappando noi, anche se in realtà non è così. No. Però è molto divertente, dai. Allora, adesso... adesso andiamo avanti. Se andiamo avanti, ma prima vi ricordiamo che questo sabato, sabato 30 marzo, al CSA Next Emerson a Firenze... Viene un signor di... per quanto mi riguarda, uno dei migliori. Viene, cioè, un signorone. Un signorone, assolutamente. Abbiamo una serata con DJ Luigi. Che si fa volere un sacco. A.K.A. Boogie Lou, direttamente da B.O. Oggi parliamo un po' così. Sì, oggi almeno per tirarci su un po' questo morale a terra. E per tirarci un po' su questo morale a terra andiamo avanti. Guarda lì che cosa ci capita. Sì, stavo cercando delle notizie per il sabato, ma non ho finito nulla. Cioè, le cerco, tu parla del resto. Allora, abbiamo una colonna portante della cultura hip hop, Masta Ace, Duval Clear nella vita di tutti i giorni. Nasce nel 66 e questa cosa mi ha un attimo sconvolta, perché non pensavo avesse meno anni. Invece a 53 anni ancora, cioè ancora nel senso... Ancora cacca i palchi più che altro produce, esatto, più che altro produce della musica che si ascolta gente di 30 anni meno. Detto questo, parliamo almeno un po' di Masta Ace, che è statunitense, come avrete capito. Inizia nel Pussycat The Symphony, debutta, così, brano contenuto nell'album di Marley Marl, In Control. Che tutti dovete sapere chi è Marley Marl, spero, non dico quanto, vai, continua. Continuando, sotto lo pseudonimo di Master Ace continua, come membro della storica Juice Crew, accompagnato da Rullo di Tamburi... Craig G, Cool G Rap e Big Daddy Kane, wow, che fanno uscire una cosa tipo 12 dischi fra il 90 e il 2018, appunto. Senza contare anche tutti, cioè, parliamo di Masta Ace, però anche Big Daddy Kane, Cool G Rap e Craig G dalla loro da soli hanno fatto un bel casino. E noi parliamo di... Adesso, aspetta, abbiamo introdotto Masta Ace per intanto ne abbiamo introdotto uno. Esatto, perché nel 2018 è uscito un disco che si chiama A Brooklyn Story, che è Brooklyn, semplicemente la versione scritta di Brooklyn per come si pronuncia, di Masta Ace e Marco Polo. E quindi adesso parliamo di Marco Polo, che è anche lui... origini italiane, si chiama Marco Bruno, nato in Canada con peggio di Mario Rossi, veramente. Sì, tipo Mario Rossi, Marco Bruno, con genitori emigrati da Napoli e dalla Calabria, quindi abbiamo, cioè, wow, un super italiano in Canada, a Toronto. Parliamo di Marco Polo, che è un produttore conosciuto da tutti i lati, in America, in Italia, in Europa, all'estero, conosciuto ovunque. Marco Polo ha prodotto un intero disco di Pumpkinhead, di cui vi parleremo anche di lui, perché comunque ci ha lasciato anni fa ormai. ha prodotto pezzi a Sadatix, allo stesso Master Ace, ha lavorato con la Bootcamp Click, ha lavorato con Kool G Rap, Wordsworth, O.C., ha lavorato con Gammon Science nel 2007 per l'album La Rivincita dei Buoni. A cui Mars tiene particolarmente. Sì. Ha prodotto un disco con il rapper Torae, si chiama Double Barrel, nel 2009, sentitelo perché è una mina. Ha lavorato con DJ Premier e nel 2012 ha fatto un EP con Bassi Maestro e lo stesso Gammon, che si chiama Per la mia gente, For My People. Quindi in Italia l'avrete visto sicuramente girare live con lo stesso Bassi, perché si è fatto un bel tour anche con lui. E anche con Z, se non sbaglio, ci stava in mezzo. E nulla, dopo che abbiamo introdotto il rapper, il produttore, introduciamo il pezzo, che si chiama Get Shot. Get Shot. Vado. Shottalo. Ho sciotto. Aspetta, alzo il volume. Bello, ok. Bella, ciao. Yeah. Man. Kimbe. Combo. Yeah. I be the man in front of the fans gandering, standing in spotlights, fam, you're panhandling. Animant, most top tens, you've been rambling, running off with the lips big, Pam Anderson. You's a real sad man, play the mandolin. You're sitting home like should could with your wood paneling. Face it, you're stuck in the basement and panicking, stagnant and can't move, a damn mannequin. Everything you do in your life is self-damaging. Drug scrambling, raw sex and gun brandishing. Can't stop, you got shot, the doc bandaging. Meanwhile, I'm in Spain up in the Spanish Inn. Bad cutie with the tanner skin. Then we telling the bartender, give us your best brand of gin. Hip-hop's what we got a big advantage. Ain't rich, not yet, damn, but your man's managing. Understands we can't be stopped. Get blocked. You don't wanna get shot. Read my rap sheet, nigga. Classics. Akimbe Mutombo of this rap shit. Understands we can't be stopped. Get blocked. You don't wanna get shot. Read my rap sheet, nigga. Classics. Akimbe Mutombo of this rap shit. Anyways, I spit fierce flow so many ways. I've been nice since Piggy Bank, saving my penny days. Before the hypnotic Alizé and Henny craze, way before Barry Bonds, guess I'm calling this Willie Mays. While you sitting spitting your silly phrase, I've been writing and reciting something that really pays. That long list is what a man wants out of life. The twist is God won't hear him until he prays. I'm from a block where there's many strays. Many cats boosting the Jimmy J's. Trying to get them something that's hot, so when they walk in the spot, they be shining like semi-glaze. Salt and pepper beard now, plenty grays. Give me Preem Marcos or give me Dre's. Give me Pete Rocks or give me Blaze. Big up Jazz Jeff, he from Philly where Gilly stays. Understands we can't be stopped. Drip block. You don't wanna get shot. Read my rap sheet, nigga. Classic. Akimbe Mutombo of this rap shit. Understands we can't be stopped. Drip block. You don't wanna get shot. Read my rap sheet, nigga. Classics. Akimbe Mutombo of this rap shit. Marco, what up, man? It's Shy. You probably won't get this till you land, but yo. Queste belle telefonate say, inserite like, come altro dei pezzi. Right now, bella, sono Marco, tutto a posto. Vabbè, ti mando un beat nuovo, ok? Fiumero con questo spirito. Bel pezzo. E adesso continuiamo. Con un artista che è in realtà tutt'altro mondo, totalmente, proprio tutt'altro mondo. Basti dire che un tempo si chiamava Breezy Lovejoy. Breezy Lovejoy, neanche il pastore dei Simpson a questi livelli. Meraviglioso, artista dell'86, Breezy Lovejoy, è meglio conosciuto negli ultimi anni come Anderson .Paak, perché il suo vero nome in realtà è Brandon .Paak Anderson, quindi... Diciamo che l'immaginazione gli è mancata, ma non l'inventiva. Più o meno. produce i suoi primi album. Lui è un factotum, è un cantante, un rapper, un produttore, fa tutto quello che vuole da sé, non ho ha visto bisogno suonare di nessuno. La batteria, fa veramente quello che gli pare. E come Lovejoy produce l'album Lovejoy e OBI volume 1 nel 2012. Sotto il nome invece di Anderson .Paak inizia nel 2014 con l'album Venice, e poi seguirà nel 2016 il quarto album Malibu, che è un album che non ricorderemo per aver ricevuto una nomination come miglior album urban contemporary ai Grammy Awards. Che parolone. Ma ricorderemo perché è un signor disco e è veramente bello da sentire. E prima o poi vi passiamo anche quello. Sì, sì, assolutamente succederà, perché ci sono delle tracce veramente, veramente belle da sentirsi in qualunque momento della giornata. Dopodiché, cioè in realtà dopodiché, lo ricordiamo anche per, nella sua carriera solista, le sue collaborazioni con Dr. Dre. Nell'album Compton, dove ci sono 8 tracce in featuring con Dr. Dre, e appunto esce nel 2018 con il disco Oxnard, che ricordiamo è uscito lo stesso giorno del disco dei Colle del Fomento, Adversus. Sì, quel giorno siamo impazziti. E questo non può essere un caso, raga. Chissà se Anderson .Paak danno. Si sono sentiti per telefono. Ma te quando vai uscire il disco? Sarebbe un bel pezzo se producessero un pezzo insieme. Anderson .Paak e il danno, sarebbe una bomba. E abbiamo scelto di questo disco una traccia con un altro personaggione di cui prima o poi faremo sentire qualcosa, che è Q-Tip. Yeah. Il pezzo si chiama Cheers. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Anche Q-Tip, un altro artista di cui dovremo parlare prima o poi in questa trasmissione, sì, perché è bello da sentire, bello da parlare. E la traccia si chiama Cheers, come abbiamo detto. Ve la vogliamo possiamo appena, a appena auguriamo a tutti un buon ascolto, buonissimo. Un po' di funky, dai. Stiamo perdendo giusto qualche minuto così, tanto per un po' di funky per se voi. Mi sale un po' di hype, dai. Vabbè, bella, mettiamo in play. Yeah. Uh-huh. Yeah. I'm working on the world premiere. And I can see the world from here. They ask me where I'm going from here. Shit, anywhere, long as the runway is clear. Shit, music business moving too fast for me. Goddamn. Wishing I still had Mac with me. Yes, Lord. How do you tell a nigga slow it down? When you're living just as fast as him, I couldn't understand when I seen a stretched out cold on the pavement. Niggas catch TKOs on occasion. Wishing I could save him, what was I to say? I was doing dates, dipping in and out of state. We was going in to get away. Sick of feeling so out of place. Wishing I could save him, what was I to say? Wishing I could save you, but now it's too late. Now is this really what I want? Is it really worth the pain? Now am I really an asshole? Fuck what you say. Don't do me no favors, let's get back to basics. We live for today, bitch, fuck up out my way. Bitch, I'm losing all my aces, I'm running out of patience. Got some pretty faces, knowing what my name is. Up in high places, I got some new neighbors. They don't really say shit, but when they see the spaceship, they just think I rap or some form of entertainment. But they don't know I'm black, young, gifted, and amazing. You know I had to close my on a world premiere, and I can see the world from here. I know you somewhere in the atmosphere. Yeah, I know someday I'll meet you halfway there. Cheers. They say there's nothing you can do about it. Can't say that I'm new to sorrow. Wishing I could take your problems, trade them for a little more time. But you carry you out the bottom, the weight of the world. I got it. Spotted you on my shoulder, the greatest honor to know you. I gotta be honest with you. I hate you ain't in the picture. I hate all the fake niggas claiming like they gon' really miss you. I know there's no one to blame. I may be the point that I'm missing, but I needed a minute. Just give me a minute. You know I had to close my eyes. My eyes. Yeah. Yeah, I knew my own names, knowing all the lies. Knowing that I can't do it on my own. And I can't hear the pain till I come say it ain't so. Tears keep falling down my eyes. Damn it, I miss you. I should be with you. Can't turn back on the hands of time. But I should be with you. Miss my friend. Damn it, I miss you. Can you not bring you back? These pictures I'm seeing are fucking me up and I don't know what to do but reminisce to face the pain of back in the days before you were dog and you were just pup. Banging beats and bringing bitches back to the tour bus. Excuse me, y'all, I know this pack shit, I just need a second. It's Q-tip in this bitch and I'm just in here reflecting. Head on collisions with memories in the intersection. Looking in my rear view, wishing I could be near you. The freeways of my mind are crowded with traffic. The good times that we had and the bad habits. Look at me now, look around, last man standing, grooming. Crying like a child, trying to understand it. So sick of sending flowers to all of my brothers, mamas. Don't know what's harder, fighting trauma or keeping the promise. True confession, breath is a blessing without a question. But niggas don't get the message until they get disconnected. My story ain't over, I'm still turning pages. But the picture I painted with you in it has faded. My queen, my dreams, and even my wages. I know what it means to lose everything when you made it. Rags to the riches and back to the rags is a motherfucker. The consequence of putting all of your chips in one bucket. To be honest, I feel like getting right back to these comments. You motherfuckers keep the drama, drama. I'm working on a world for men. And I can see the world from here. I know there must be something after here. I know someday I'll meet you halfway there in the atmosphere. Cheers. Free my mind. You know I had to close my eyes. Close my eyes. And then I had to free my mind. Yeah. Tornati qui a Los Angeles, c'è un gran macello di artisti vari che fanno cose, quindi un gran macello e basta in realtà. Sì, quindi ci scusiamo se ci sono degli strani rumori ogni tanto, ma una città movimentata, lo sapete anche voi, del resto ci siete stati tutti qua a Los Angeles. Sì, sì, certo. Allora, adesso andiamo freddo avanti. Dicembre, freddo come abbiamo gli ultimi tre pezzi in scaletta per oggi, quindi vi facciamo felici ancora per poco, poi tornerete a non so a fare cose. Alla vostra triste vita. Allora, parliamo adesso di un artista che io ho conosciuto in realtà molto poco tempo fa. Parliamo di Wisecracker. Allora, il fatto è che non si sa se c'è una A o una U. C'è una Wisecracker. No, Kruker, qua c'è una V, capito? Però sì. Come si legge? Kruker, Cracker, Cracker, Kraken, non lo so. chiamiamolo Wisecracker, sembra un biscotto. Eppure lavora con gente di cui si sa benissimo il nome. Sì, infatti, cioè, ogni pezzo ha un featuring enorme. Noi abbiamo scelto un pezzo con un featuring di Twisted Insane, Ill Bill. Il grande Ill Bill che purtroppo non possiamo farvi sentire perché nel 2018 non ha fatto uscire nulla. Ma sta per uscire il disco nuovo, quindi ve lo faremo sentire nelle prossime puntate, non vedo l'ora. Appena esce subito. Sì, facciamo puntata dedicata. Nulla su Wisecracker, oltre che dell'Arizona, non so cosa dirvi. So che il disco l'ha prodotto Mocha Only degli Swollen Members e questo è assodato. Ma non so dirvi altro. Il disco si chiama Supreme Paradigm, The Grand Scam. Andatevelo a cercare. Se trovate qualche notizia in più, vi prego, dateci. Possiamo dirvi che sicuramente è un bel disco, perché se no non l'avremmo scelto. Vabbè, secondo i nostri gusti. Esatto. Magari ci manderete una mail con scritto Wisecracker fa schifo. Noi diremo va bene, ok, non lo metteremo mai più. Quindi nulla, vi facciamo sentire The Drill con Twisted Insane e il Bill, basta, perché non posso dirvi altro su di lui. Parla da solo. Esatto, pompatelo. First off, I said kudos to Bill. You know the drill, the drill. Unholster the weapon, I'm vicious with this ammunition. Blowing kisses out the Smith & Wesson. Aggressive, a rock and a Stetson. Expensive and begging the question, what's your first impression? Name an adrenaline source, fuel from acetylene torch. This duel is no game, no gentleman's course. My pen is a menacing force. We're down to the metal in court, you're battling orcs. In other words, your head on a sword and one in your corpse. Your barbecue pork, wrap you in foil and grab me a fork. Now you can quietly smile and soil your shorts. Wisecracker, attacker of sorts, you paid after the fort. So I'm back on your porch, extracting remorse. Celts will have you laugh at the Norse. I'm black Irish, we turned violence into a sport. Houses were scorched and bodies left nailed to the doors. So when you see wise, get down on the floor. First off, I said kudos to Bill. You know the drill, the drill. Picking them out, recruiting. Ain't no way but to get the K before I spray and get you pooping. Ain't no love. I leave it up by this bitch till I see blood. Fuck your plug. I'ma post with a 226 till I see guts. Nigga, what? Did you think this shit would go a little bit different? Just sit around, have some drinks, maybe. Talk and think, for instance. Unfasten. Give me the chance for the bash and I'll be scraping ration. Thought you would be able to put the one to pull the gun and put your face through glasses. I'm an assassin. Pull up only one deep. Millimeter in the front seat. Chew a nigga like a lunch meat. Blood walk, crocodile Dundee. Every killer really bump me. Do a murder when I'm in your headphones. Always told me that I ain't shit. Put the brain sick in my headstone. Then my dad wrong. Never had cereal, just a bowl of grits. Sit up and talk to myself at night. I'm sweaty like I'm on some shit. Better watch out for you, pull up off my spliff. This shit will have you feeling like you jumping off that cliff, motherfucker. First off, I said kudos to Bill. You know the drill, the drill. First off, I said kudos to Bill. You know the drill, the drill. It's a murder in the verse with the burst. My verse swerve like a hearse. My words zip like body bags, it's perverse. Light sheep in the move at light speed. 1 minute you chillin', next you might bleed. That's how life be. Me them all the super villain type of shoot 'em all. Spinning in the womb, be you the road. Try not to lose your soul. Groove on the left hand path with brutal flow. My surroundings adapt like Google Chrome. Hoodlums close, switch to camel belts and ammo. Cooking coke in the bando with a Lando. Crooked noses and tongue lashes to sample. Brooklyn knows, but nobody asks questions or ramble. Cause we the sons of Rock, him and Rocky. Lyrically stun the population constantly. We hit the jackpot like a virgin to I'm King Ad-Rock. Mad Rock, quick to tell the world to suck a fat cock. Sarete d'accordo che è un pezzone? Dai, sì, dai, hip hop vero, quello che ci piace, quello con dei bei sample, con delle belle sonorità. Con un bel tutto. Un bel tutto, infatti, poi il Bill, ma che gli dici? Esatto. Nulla, perché se ti tira una manata sei fritto. Ehi, dai. Eh beh. Se ti cade addosso sei fritto. Allora, adesso andiamo al... penultimo pezzo. Davvero? Ci scusiamo, io mi scuso personalmente perché la prima puntata è questa, sono state molto schematiche. Sì, cioè, sì, ma poi ci daremo più al... abbiamo voluto fare delle classifiche, un pochino più tranqui, quindi sì. Abbiamo messo un pezzo, abbiamo parlato, un pezzo, abbiamo parlato, un pezzo, dalle prossime cercheremo un attimino ci organizziamo in maniera più ludica. Esatto, però ci siamo presentati bene questa lista di pezzi, dai, già spero, almeno. Spero. Allora, passiamo in questo dicembre ricco di uscite a Dirty Dyke. Dyke. Chi sarà mai questo Dirty Dyke? In realtà è inglese, rapper inglese, che facente parte della casa oggi ragazzi proprio mi dispiace, casa discografica Egg Focus Records. Records. E fa 6 dischi solisti, è un sacco attivo sui social se volete seguirlo. Io ad esempio lo seguo, è veramente una di quelle persone che ti alleata la giornata con un sacco di... Queste sono notizie che vogliamo, seguiteli sui social. Esatto. Perché dobbiamo parlarvene noi? Mandateveli a cercare, seguite. E in realtà non c'è molto da dire, piuttosto, esatto, sì. Piuttosto qui. La casa discografica è la stessa del Fliptrix di prima, mm-hmm. Ha collaborato con i Four Halls, ha fatto un EP con Rag & Bone Man, che molti ricorderanno per il pezzo della pubblicità, Human qualcosa, non mi ricordo. Vabbè, comunque è un bel EP. Notizie quelle culturali. Sì, con le piccole pillole di vita, capito? Rag & Bone Man e Dirty Dyke. Vabbè, nulla, adesso vi facciamo sentire Dirty Dyke, tanto fra un po' abbiamo finito, quindi dai. Quindi state con noi per questi ultimi 2 pezzi. Un ultimo sforzo e vi lasciamo andare. And watch your missus have a fit. The cripple spin backwards into simpleton abyss. I live in England thinking ignorance is bliss. Trying to paint myself dripping with the pigment in my piss. Crippled chicken wings are literally a quid. And you can get a sticky bit of weed as quickly as you wish. From the sticks to the city, kids are rich and paid to keep it crisp between the villains and the privilege. You want drugs, of course, everybody wants drugs. A love song's a dead apology that once was. Head nodding extra horribly to wrong stuff. Offbeat bollocks, dead philosophies and top trumps. Slumped happy and crisp, suntan of a pig. My bunk bag is full of valleys and quids. Unplanned in a planet is my plan to exist. And stack bangers so the galaxy can shatter to bits. Slumped happy and crisp, suntan of a pig. My bunk bag is full of valleys and quids. Unplanned in a planet is my plan to exist. And stack bangers so the galaxy can shatter to bits. Yeah. Get me to a place where I can drink and sit and think differently, erase the time and blink. A second citizen, a system on repeat. So let me keep my distance individually and speak. Why the fuck you gonna listen in the first place? Gun face, cripple locking chickens in a birdcage. Birthday wishes, fresh nipples, piss and sperm stains. Dripping vertically, ripping through the world, mate. Excuse me, God, you keep getting in my fucking way. I'm trying to brush the brains of everyone and run away. I mumble triple platinum lyrics, think about your image. Sink a battleship in minutes with a pack of villains. Pack of villains. Slumped happy and crisp, suntan of a pig. My bunk bag is full of valleys and quids. Unplanned in a planet is my plan to exist. And stack bangers so the galaxy can shatter to bits. Dike. Il disco è Acrylic Snail e il pezzo era Suntan of a Pig. Pig, maiale. Questo non so cosa voglia dire. Ci teniamo a darvi la traduzione. Il titolo del disco è figo. Acrylic Snail, c'è proprio un disegnone in copertina. È tipo una lumaca radioattiva, no? È una cosa stranissima la copertina. E nulla, gente, signore e signori, asterischi e asterische, siamo arrivati alla chiusura della puntata. Quindi prima di chiudere, vi diamo qualche ultima dritta. Allora, per quanto riguarda la serata al Next Emerson di sabato, avremo il DJ set in apertura di Crazy Kid, Odo e Bright. Avremo poi i Fan Coolers live e a seguirsi il grande DJ Luigi, a.k.a. Boogie. Vi consigliamo di andarci vivamente perché abbiamo visto questa cosa e ci è piaciuta molto. Andateci, noi probabilmente ci andremo, quindi se cercate tra il pubblico... Partiremo in trasferta da Los Angeles e andremo... Se cercate del pubblico troverete due facce strane, saranno sicuramente Mars e Vintro. nulla, quindi adesso... Prima di parlarvi dell'ultimo pezzo di chiudere, no, beh, no, vi salutiamo dopo. Che dico? Allora, adesso mettiamo Jason, che non conoscerete tutti, però ascoltatevelo. Jason. Lo conoscete di. Di vista, l'ho visto l'altro giorno al bar. Prendevo no, un caffè nel senso al cappuccino. Che comunque c'era, non si sa, ma c'era. Esatto, ha fatto parte del gruppo degli Special Teams, esatto, con Slane della Coca Nostra e la leggenda Edo G. Il disco si chiama Stereotypes. Andatevelo a sentire, è uscito nel 2007. E tra le collaborazioni enormi fra qui Premier, Pit Rock, Il Bill e Marco Polo, c'era anche una produzione del nostro DJ Shock. E qui adesso ci vorrebbe un applauso, ma non ho il tastino con gli effetti, quindi l'applauso lo faccio io. C'era DJ Shock. Cioè, ragazzi, ve lo passeremo quel pezzo quando parliamo di Shock, oppure un random in una prossima puntata vi passeremo quel pezzone. Nulla, Killia Boss è il disco del 2018, il pezzo è Part of the Game. Tutto vostro. Tutto vostro, io sono Mars. Io sono Intro. Avevo presentato Sessioni Notturne, puntata 2, ci vediamo giovedì prossimo. Vi prego, dateci un tema, se no non so su cosa dobbiamo fare la puntata. No, non vi preoccupate, ci sono io qua. Scrivetecelo un tema, dai, non è che... Sì, ci fa piacere, ci fa piacere. Dai, un'idea in più non fa mai male. Facciamo un programma per il pubblico, con il pubblico. Play e ciao. Aspetta, alzo il volume, ok? Ciao. I call Skip, yo, Skip, you got to hit me with some fire before I guzzle down this last little swig of desire and just retire me. I was selling meth back when meth was on the wire. All you sucking MCs got to call me. You studied higher learning, but me, I just learned higher. While you turn the other cheek, me, I turn and return fire like... I do it M.O.P. style. How you gonna pay me for that hole through your face with your freestyle? You're not an OG cause you wearing that bandana. You're not an MC cause you paying French Montana. You a pussy boy, let me get your clip wet. You wanna be, never ever gonna be the Beantown dipset. Sorry, when I'm angry I just lash out. Garbage trucks come and jump your ass in this can, I'ma take the trash out. I get mine the ski mask, way the fast route. Soon as your investor gets locked up, you be assed out. And starting from scratch, these the cold hard facts. Jason, a rip shop. I'm a mixed nut. What up, Johnny Hatch? What up? Oh, God rest the dead. If money's the root of evil, God bless the bread. Put your mouth on the curb, promptly stomp out your teeth. Kill my Tim Turton, that's the agony of defeat. But in these Beantown streets, niggas don't tuck in they chains. Never. Even if they only weigh a buck and some change. You bought a feature from that nigga and paid 10 stacks. You crazy? What part of the game is that? You had a ratchet on your waist and you still got clapped for your scratch. What part of the game is that? Dumped the whole clip and didn't hit shit. How lame is that? What part of the game is that? Your whole image is an act and your lyrics ain't crack, you whack nigga. What part of the game is Listen, that? Listen, you're not Guru from Gangstar, you never meet Primo. You can't extort Dave Mays, you not Benzino. You got it fucked up, you not Big Chuck, you not emo. You the cancer in the game and I'm the chemo. Move to LA, try to blend it in high. Cause when you can't recover videos you save on your drive, I doubt that you'll survive. Close the blinds, stay inside. Cause these Mexicans at Pico and Union throwing signs. Don't get me wrong, it's cool, you know Styles B. Better, you know Jada. What it do for you? You work at Tambu as a waiter. You not famous cause you pose with famous people in flicks. The only time you down the ride is on another nigga's dick. But I'm still up on corner Dorchester, I'm still down. Even when the circus isn't here, you're still clowns. What the fuck is on your brain? Paying damn near 5 stacks to open up a Waka Flocka Flame. You bought a feature from that nigga and paid 10 stacks. You crazy? What part of the game is that? You had a ratchet on your waist and you still got clapped for your scratch. What part of the game is that? You dumped the whole clip and didn't hit shit. How lame is that? What part of the game is that? Your whole image is an act and your lyrics ain't crack. You whack, nigga. What part of the game?